you ever be my, would you be my fucking boyfriend? My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. No, se la vogliamo finire di guardare le cartelle cliniche dei nostri favoriti, Ce l'avamo persi in chiacchiere. Una trasmissione da fare, tipo. Buonasera, alle 21 passate da 3 minuti sulle frequenze di Controradio, il lunedì sera è appannaggio di Ragnar Pfizer. Finalmente sono tornato, c'ho il libretto delle assenze. Davvero? Con le giustificazioni. Ma dove eri finito? Sei veramente, sei stato scandaloso, se posso permettermi. In città con il coefficiente d'altezza medio più basso, l'ho sentita, sai. Non ti senti? Non Lucio, ti senti? Si chiama microfono unidirezionale. No, dicevo, finalmente per te, spiacevolmente per noi. Noto che avete alzato il microfono, questo qualcosa vorrà dire. Perché c'ero io, Andrea. Finalmente informazioni tipo ci siamo tutti, anzi ci abbiamo anche degli ospiti che però ancora non vi diciamo per scaramanzia. Esatto. Appena arriva, allora poi possiamo rivelare. Si può annunciare. Weekend decisamente intenso, quello che ci siamo lasciati alle spalle. Cominciamo oggi una settimana nuova, però insomma belle serate a giro. Le avevamo annunciate, in parte, anzi le avevate annunciate nella scorsa puntata di... Eh sì, c'è stato Mala, la Flog. Venerdì, sabato il buon Just Station con Biologic al cargo. Al cargo. Che sudata, ragazzi. Mamma mia. Quella sera si sudava. C'era poca gente. Il resto, i consigli che magari voi diamo per il prossimo fine settimana, più in là, con calma, sì, dobbiamo dopo. Ancora fare il punto, qua siamo indietro. Io c'ho una botta stasera, guarda. C'ho da finire la maglia, l'ho lasciata a mezzo. Intanto siamo certi di potervi annunciare il DJ set di Biga come primo della serata, ragnarpaisa.blogspot.com. Il posto dove andare a cercare, tra le altre cose, anche il nuovo mix di El Climatico. Sì, in realtà non è nuovo, l'aveva messo sul suo SoundCloud un po' di tempo fa, però hai fatto la copertina, l'abbiamo rimesso su, come facendo finta che fosse nuovo, in realtà non era nuovo. Comunque, si chiama 20 minuti de clima variabile. Da pronunciare rigorosamente così, perché da se pronunciare non... male come l'ho pronunciato io, sì. Già sento Matteo lo pronuncierebbe bene. Sì, salutiamolo. Lui ci capisce e ci sperdona la pronuncia marcia. Ma il brasileiro, voi ci siete stati? Io non c'ero. Dove? Ah, DJ Tom. No, Vec. Niente, nessuno. Io no, ero malato. Madonna. Volevo sapere com'era andata. Dopo sentiamo Biga. Yes. Biga, tutto tuo, l'etere. Vai. Da. cantante fez a minha vida. Deixa o seu caminho feito meu. Deixa o seu passado da avenida. Seu passado é tempo que morreu. Você pode ter o meu carinho. Que eu posso ter seu, mas se você não gostar de mim, segue seu caminho sem amor. Mesmo que eu fique sem você, eu fico só. Cidade eu vi alguém que não mais esqueci. Uma linda dama, senhorita, baby, porque foi que eu lhe encontrei e não mais lhe esquecerei. No seu carro azul esporte, não tinha medo nem da morte, quanto mais de mim. Ba-da-ba-ba-da-ba. sem capota, segue a rota de rotina. Com a mão na buzina, eu acordo Cristina. Vou a todo vapor pra ver meu amor. Cristina, Cristina, o meu jipe sem capota, segue a rota de rotina. Com a mão na buzina, eu acordo Cristina, vou a todo vapor pra ver meu amor. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não. Está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, nega e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva, a girar. We'll be right back. de falar de mim. Quero ouvir o tempo te dizer que a mim terás que quem fala demais. Agora em homenagem ao meu fim, não fale dessa mulher perto de mim, de mim. Aurora iluminada, hey, hey, hey. Penso que você não existe, mas meu coração insiste em te amar, em ter você aqui. Oh baby, baby, baby, oh baby. Entre estrelas, espinhos, baby, flores, carrego nossa imagem pelo mundo. Hey, hey, hey. O tempo saberá o que fazer. Hey, hey, hey. O espaço é nossa estrada. Hey, hey, hey. Penso que você não existe em ter você aqui. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby. Ah, é. Oi, baby, baby. A questão: em quantas palavras tenho que dizer? Nem só de pão vivo o homem, ser ou não ser. Sentimento é coisa que vem da alma. Minha musa, minha causa. Penso que você não existe, mas meu coração insiste em te amar. Ter você aqui, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby. Se um dia eu tiver que ser feliz e de ter alguém na vida, tem que ser você. É isso aí, baby. É isso aí, baby. Se um dia eu te ver, você feliz. Se um dia é na vida, se um dia é você. Wow, wow. Allora, storie di bambine, storie di bambine, storie di giornate di pioggia, tipo con lui che sta un po' malinconico a casa a pensare a lei, sì, e guarda fuori dalla finestra l'acqua che casca giù. Questo così, impressioni portate a memoria dal primo set. Impressioni di giugno. Esatto, un po' impressioni di giugno dal primo set dentro la Gran Paisa di oggi col buon Biga che ci ha messo così l'ultimo dischetto sul quale raccontarvi qualcosa, qualche segnalazione. Vai tu, vai tu. Ah, vado io. Vai tu. Allora, se devo leggere tutta la roba c'è scritto in questo bigliettino, serve un'altra la leggo. Ok, vai. Allora, c'è prova. Marcello Lippi ricoverato a breve su MTV. Ma poi Luca Giuliani. Questo è quello. A chi te le ha date queste notizie? Quelle serie, gira il foglio dall'altra parte. No, ecco, è meglio lo giri dall'altra parte, se no mi arrestano. Allora, c'è da dire che il 5 marzo ci sono gli IPMD a Bologna. Oh yeah. Il posto non me lo ricordo. Te lo dico io, so si chiama B-Box, che è in via Maserati 9. Bravo, te lo ricordo. 9. Si chiamava Ruvido, un club che prima si chiamava Ruvido, adesso si chiama B-Box. Prima si chiamava Liscio, adesso B-Liscio. Si chiamava Ruvido e ci facevano il liscio. Esatto. Avrebbe spaccato. Avrebbe avuto molto senso. Avrebbe spaccato. Comunque il 5 marzo è un sabato, così magari memorizzate meglio la data. E PMD al gran completo, peraltro aperti dalle crew locali Trix, Jared, Galante, quindi anche una buona parte dei vecchi fucking Camels in effect. Poi c'è da dire che questa settimana, se vi sintonizzate su DJ TV alle 3 di pomeriggio, ci sono Gammon e Mecna che presentano The Flow. The Flow quest'anno non lo presenta più Rido, esatto, ma viene presentato a girare da vari personaggi della scena hip hop urban italiani. La settimana scorsa c'era Mirko Chiave e questa settimana c'è Gammon e Mecna. In più sappiate che una delle prossime trasmissioni di The Flow, riusciremo poi a darvi un buon anticipo su questo, sarà quella girata dalla troupe di The Flow qui a Firenze in occasione della data di Mala di venerdì scorso, sia nella info session di Red Bull Music Academy che si è tenuta alla Casa della Creatività alle 6, sia poi nella versione DJ set all'Auditorium Flog con tanto di interviste eccetera. Esatto. Poi in realtà, a dirla tutta, Rido c'è ancora ma sta dietro le quinte. Certo, cioè, sì, no, non c'è ancora quello che fa le interviste, che non c'è più Rido. Rido coordina, certo, fa il regista, certo, diciamo, da dietro, insieme al buon Alyosha di Casino Royale. Peraltro c'era quasi tutta la band al completo, insomma, sì, a sentire Mala, perché avevano collaborato insieme già in altre date milanesi. Sempre a proposito di date, giovedì questo invece dobbiamo segnalarvi Bubu e Tommy, quindi insomma, alla Casa della Creatività, i Selecta ufficiali di Ragnar Paisa, alla Casa della Creatività, per il progetto coordinato dal Dave Local Heroes, quindi ingresso gratuito a partire dalle 19:30-20 in poi. Ok. Altro? Segnalazione di uscite? Un paio? Altro lo dici pizzicagnolo. Altro? Ma non ho mai capito come funziona quella cosa. Altro ti nel senso. Altro e te altro. Gli fai vuoi altro gli dici. Alzi le mani. Mani in altro. Ah, ho capito. Quindi mani in altro. Vabbè. Gli fai altro. Cioè, che in realtà vuol dire tutto il contrario. Segnalazione pomeridiana del buon Dimo su Faccia Libro. Andatevi a scaricare il nuovo mix di Mix Master Mike su mixmastermike.com, si chiama Napalm Rockets, è stato uploadato proprio in queste ore ed è un mix dubstep, conferma... E questa cosa mi fa paura. Conferma un po' la tendenza di certi turntablist storici che ultimamente si stanno dedicando dubstep. Purtroppo la gente, il buon 90% della gente che faceva hip hop e si mette a suonare dubstep... Non ti piace? Tipo no, cioè, quello di DJ Mugs? Max, l'hai sentito? No. Anche cerco lui di evitarle perché c'hanno dei gusti osceni. Quindi. Va bene. Altra cosa un po' più raffinata sicuramente per i gusti musicali, quella pubblicata proprio oggi dal buon King Brit sul progetto Saturn Never Sleeps. Vabbè, magari ne parliamo nel prossimo break. Adesso comincia Tommy, che sennò si spazientisce. Mr. J.R. Reed. Refugees, but I'm like, cool dance. Good guy, bad guy. Sunday, a bloody Sunday. I sat up in my province, and he bought me sympathy. But it still won't change my conscience. Death becomes him. My silencer becomes my master. My best friend goes like Casper. Till the hereafter. When the cops raid, we were playing a game of spades. Back to back, explosions from my hand grenade. Just like that, a simple impact, causing them to see black. He fell into the gap. Say, Mr. Madden, take some grave and deal some coffin. Tonight, tonight, big things are go happen. Why disrespect and say we can't do him nothing. Put we hand up and we hip and we just start press button. Black banded dirt, I saw the boy drop sudden. Right before you ban, I know your shoulder rotten a long time. With your one, who know not take heed. See them going on and who know heart going bleed. Road boy, where you are go? Mike in our way and the cars is thick like a crew. Thinking how we hit, we just let off the Bellevue. It's the Don with the bomb and I'm passing through. Ooh. Rude boy, where you are going to? Mike in our way and because it stick like a crew. Stick in our head, we just let out the Bellevue. It's the Fugees with the bomb and we're passing through. Flipping the script, page one. Got the real boys in the house, the big kid. Calling all shots. So here's the resume for the day. Check it. It's time to turn the page. So check it out, y'all. Check it out. Check it out, y'all. Check it out. Check it out, y'all. Check it out. Check it out, y'all. Check it out. Check it out. We hear some real type shit, Grand Booba with the singer. Give thumbs up, cause I'm glad I could bring her. Honey, clear your throat. Ooh, yeah. Yeah, the shit sound dope. Well, here goes the skit. It's the kick around, sing to the beat shit. That you wanna get with. Brothers try to copy, but they just can't get it down right. This is how we move it tonight. So, honey, is you ready? Yes, I'm ready. So, kick the flavor, get the loot, and let's be jetty. Oh, oh, yeah. Check it. Well, I'll be damned if I do, damned if I don't. It's time to kick the flavor on the rear. You think I won't? And you know I come to kick the flavor too. Well, that's true. Now how we do? I get busy. Hey, yo, hun, me too. And there's nothing. Cause that's the way we do. So get ready. Because you know the deal and what the deal fair. Yeah, yeah. Down, get down with honey from uptown. When I'm done with this, I'll be around like James Brown. Ain't no thing. Honey, just you sing. Know And now, reaching out to all crew and all massive down in the Caribbean, up in UK, Europe, America, Japan, all bow. And if I don't call your name, don't feel no way. Hey, Phenomenon 9, Magnificent Mr. Shine, Awa. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, let him in. Ooh yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Bonnie Whaler, Ninja Man, Sleepy Wonder, Bobo, General Muta Baruka, Curtis Rams, open the door. Gospel, cause you walk on like you want keep it from the people, clear the way. Make we gon' talk you truth, not bad that one like you want to pressure you, honey, you awa. Keep no secret when I keep away mouth when it come to music. Only hear me, keep no secret when I keep away mouth when it come to music. To present my rep, lyrically deep like sleep, I rock hard like Led Zepp. I take steps and leave impressions on planets more complicated than life, so rappers cannot understand it. Talking that hardcore shit, but I don't buy it. Sit down, eat your slice of pizza and be quiet. Cause all that noise you talk is not needed. I cut heads off at the knees and leave them all defeated. So stay seated or get deleted from the program. Let it be known I don't follow cause I'm my own man. With my own plan, cause the mind is infinite. We got 4 minutes, so everybody get with it. Everybody, y'all know we rock the road. Yeah, we rock the road. It's for the whole world. What you have to do. We rock the road. Oh, check it out. big, big, big long john. Big long john. Well, I'm dreaming of a sexy relationship. Me and this sexy chick across the border. Now in order to get between those legs, have to get things in order. Tired of shooting these damn telephone, going across the border in Fred Al Capone. Girl is home and she's so all alone, and she is longing for a big long cone. Because she need me some long time. Big, big, big, big long time. And all along she need up in the morning before I start some yawning. I wonder who the hell is calling. Not surprised it was my darling, and she need me way up in her margin. Oh well, the cop that do that quite well, riding with my rubber's bedroom bombshell. What's up next? And the way start to fell. Oh yes, girls know I do that quite well, because she need me some long time. Big, stuffing my product in balloons for swallowing, importing it, transporting it through metal detectors. No one's following. Coast clear from the East Coast to South America. Medellin, known for doing dirt, but my track's clean. As a whistle, you get hit by a missile while you eating dinner. Trying to reach for your pistol, use a beginner. At this, you need practice. My label, put dough on the table for me to whack his. I whack him, body bag him, trunk him. Daily routine. My product bring new fiends from other areas. My tune starts spreading like bacterias. Fuck rubber gloving it. My peeps is loving it. Niggas is taping it. Dubbing it. I give it to your roar out the speaker. While you indoors like a fucking housekeeper. Dustin', I'll be outdoors hustling. Crack gambling, scrambling. My doses like eggs. Niggas don't pay. What you do? I break legs. Snap neck, shoot off text, do like the IRS, and repossess your fucking Lex. Yeah, where the fuck my dog? Oh man, yo, you don't understand. It ain't hard to tell. Zaz is the kick of the stowing. Zaz is the kick of the stowing. It ain't hard to tell. I excel, then prevail. The mic is contacted, I attract clientele. My mic check is life or death, breathing a sniper's breath. I exhale the yellow smoke of Buddha through righteous steps. Deep like the shining, sparkle like a diamond. Sneak on the Allen. In my army jacket lining, hit the earth like a comet invasion. Nazis like the Afrocentric Asian, half man, half amazing. Cause in my physical, I can't express through song. Delete stress like moon trend, then extend strong. I drink my wet with Medusa, give a shot to hell. From the spliff that I lift in hell, it ain't hard to tell. Zaz is the kick of the stowing. Zaz is the kick of the stowing. It ain't hard to tell. Zaz is the kick of the stowing. Zaz is the kick of the stowing. That guy again, word, that's that busy beat. This time he's talking about running things, getting cold cash money. I mean, he's running things, he's running everybody out of craziness, running them wild, man, he's running things, for real. Picking up money, stick it up, honey, I'm having so much fun, it should be funny, but you don't see me smiling, I'm fashioning, styling, and b-boy profiling. You see, I'm so damn dope. You put my rope chain on, man, it'll cut your throat, break your neck like a chicken wing. I'm busy being, I'm running things at the quarters with me in red. A red alert, y'all, that's what I said to all you suckers that I try to diss. As if you try to diss that, then you better kiss this. I mean, kiss it clean with a dope lean, but don't spit on my jeans. You go out with a bang. I'm busy being, y'all, I'm running things. Man, I'm running things. Oh, I like this. I want to tell this story. A little story about a brother who you would think has everything going for himself. But apparently, for some reason, he just ain't happy. I call his brother Mr. Pitiful. I want to tell you something about it. Check it out. The story begins in 1984 when I met the Bismarcky out in front of the store. He used to tell me all the time, yo, your lyrics is hype. We got to get together and make a record of some type. I said, man, the hype behind Buddy and C and Cool J. What the fuck makes you think they're gonna give us a play? We did a few shows together freestyling on stage in Manhattan and Long Island for Mike and Dave. After that, I wasn't convinced we could do it until my man Biz did it and came out with Make the Music. From right there, I said, man, this shit is real. Look at Biz in a new leather and a pair of spot bills. I got to give it to you, Dukes. I was wrong. Were you out there now? So put my black ass on. And sure enough, in about a year's time, I was R-A-W going for mine. Dropping jams and slam on every radio program. And bam, goddamn, look where I am. The first album, Long Live the Cane, and sold about, oh, fuck it, it went gold. The money was coming in. Yes, I had done them in. It wasn't quite hard for me to find a woman then, cause I was in demand for lots of fans. A sexy chocolate guy in the public eye. I bought myself a condo out in Queens. A plush white Volvo and drove off the scene. But I remained the same since I moved out for instant. Drinking Oli and getting stout. And also hanging out with the truth most of all. Take care, man. Let's go. Hold this bussin', hold this bus, hold this bussin'. Hold this bussin', hold this bus, hold this bussin'. Hold this bussin', hold this bus, hold this bussin'. Hold this bussin', bust it down, hold this bussin', hold this bus, hold this bussin'. Hold this bussin', hold this bus, hold this bussin'. Hold this bussin', hold this bus, hold this bussin'. This track right here, but I'm hold this bussin' down, down, down, down, down. Had it all. You have my heart and soul. Bravo il nostro Tommy, stile rinnovato, capito? Sì, io lo sai, il disco più nuovo che metto è forse di 96, mi sa. Appunto, dico, ci hai stupito con gli ultimi 10 minuti del tuo set. Ma scusami però, posso dire una roba? Ho annunciato solo te, quindi... Cioè, c'è talmente tanta musica vecchia, la gente non conosce, cioè, che per farti sentire una roba che te non conosci non c'è bisogno di mettere la nuova uscita, vero, vecchia. Come cioè, si fa? Basta andare a cercare un po', voglio dire, no? C'è sempre da stupirsi. Svegliamo l'arcano, in realtà... Ad un certo punto nel set di Tommy che era annunciato è uscito fuori a sorpresa il buon Duccio che non era stato annunciato. Ci siamo mixati. Esatto. In the mix. Avrete sicuramente riconosciuto anche il suo stile per la tracklist di questo set, come degli altri, insomma, ragnampaesa.blogspot.com domani, oppure abbonatevi al gruppo su Facebook, che è un altro modo per stare in contatto. Sbaglio, è partito il fatidico gesto. è partito. Anche dalla curva, però c'è stata una risposta. Sì. Salutiamo i buoni amici che si sono passati a trovare nello studio 1 di Controradio. A proposito, possiamo a questo punto ufficialmente annunciare sì, anche il nostro ospite. È arrivata. È arrivata DJ Muxima, a.k.a. Nadine, a.k.a. King David Warrior, a.k.a. Biologic. Fate un po' voi. Questo è il pedigree, diciamo, in sintesi. L'avete sentita nominata a proposito della serata con Mala venerdì sera all'Auditorium Flog di Firenze. Poi Firenze le è piaciuta. È presa bene il giorno dopo. Esatto, ha deciso di restare praticamente. Era già station al carico, sì. Domenica gliel'abbiamo lasciata di pausa, lunedì l'abbiamo chiamata a sto punto a suonare a Ragnar Paisa, no? Non prima di un set di 20 minuti firmato dal buon Bubu che è già lì in console, giusto per finire la segnalazione che avevo iniziato prima, DJ Kulerk versa in cattive condizioni di salute in un ospedale americano. Si stanno muovendo diversi artisti a organizzare party e varie operazioni. Una di queste l'ha fatta King Britt, che ci ha suonato diverse volte insieme a Kulerk negli ultimi tempi col suo progetto Saturn Never Sleeps. Sul sito ufficiale del progetto trovate una intera compilation nuova di Packer con dentro pezzi di Shigeto, Ras G e molti altri in free download, e poi un link che vi invita a donare dei soldi se volete per Kulerk, che pare se la passi male anche economicamente. Eh sì sì. Visto che tra poco, il 13 marzo per la precisione, avremo alla Flog il buon Bambata, insomma ricordiamoci delle vecchie glorie dell'hip hop. Ok, Bubu a Ragnan Paisa, poi Biologic. You. Secrets. Went down, but no, it was all good. Though. Okay. It was all good. Okay, we'll talk a little bit more about that, but you mentioned that just happens to be next on the all Fat right, Nine. Good, good. 4321. All what's right. The station, Jake Dudy? Make the pledge, yo. Baby, touch you. Love and what's your head? there's no reason they can't have dogs up there on the moon. That's a pretty good looking pooch. Bet you come back for some more of Dr. Neptune's delicious elixir, is that right? I knew you would. I'll get that for you. Oh, I see. You figured out where it is, didn't you? Well, all right. I'll tell you what I'll do. I'll set up a checkerboard here, and we'll have us a better game of checkers. One without all that cheat you done last time. Ain't gonna have no more of that. Like that up there on the moon. Wow. Ci ha dato la scossa funk. Buon bubu. Bomba, questo. Mamma mia, ultimo pezzo. Paura. Ho visto che Nadine ha apprezzato quando ha visto l'etichetta sul 12 pollici che stava suonando bubu. Quindi così, se tanto mi dà tanto, potrebbe essere un disco Flogsta Dancehall o Armonia. Comunque roba squit. Squit. Storia di topi. A proposito, visto che abbiamo citato Nadine, sta a lei l'ultimo set di questa puntata di Ragnar Paisa, ricordiamo anche il bellissimo documentario collegato comunque al giro appunto dei collaboratori di Nadine, che si chiama This is Qui. Il famoso documentario. Anzi, We Call It Qui. We Call It Qui. Per essere più precisi. Noi ce lo siamo un po' passati, voi cercatelo sul web, cercatelo nelle varie proiezioni in giro in Italia, insomma. Divertente, fotografa un po' questa scena nord europea che Bubu segue appunto sempre puntualmente con i suoi mix. Che possiamo dire, Tommy, per introdurre la signorina qui? Che vuol dire? Non lo so. Tipo ricordare chi erano King David Warrior. Perché già l'abbiamo detto l'altra volta, insomma, King David Warrior sono stati il sound dub roots in Italia, insomma. Eh sì. Chi c'era e li ha sentiti sa perché, insomma. Già sa. Li ho conosciuti una volta con Abbasciante a Leoncavallo di Milano, notte indimenticabile. Eh sì. Un'evoluzione che poi dopo il sound condiviso con Teo, loro sono a San Venzano in provincia di Aosta, è diventato un altro nome, un altro tipo di impegno con un'etichetta che sta per uscire con le prime release naturalmente in vinile, collaborazioni italiane e inglesi, è diventato Biologic, con l'idea appunto di tenere insieme negli stessi set dub, roots, reggae, dancehall, nuove sonorità elettroniche, dubstep, qui e un sacco di altre robe. Di tutto un po'. Di tutto un po'. Molto nello spirito di Ragnar Paisa, se vogliamo. Ok, lei va fino a chiusura, fino alle 22:27-28 giù di lì, poi arriva il notiziario in edizione Flash. Ragnar Paisa ritorna lunedì prossimo alle 21. Flash! C'è. Oppure su ragnarpaisa.blogspot.com quando volete, diciamo, va? Quando volete. Siamo sempre lì. Solo quando te lo dico io. Salute. Ci si vede, ciccio. Ciao. Ciao. Dressed up in virginity. You know that. You know that. creation. It's a real true sound of revelation. It's a real true sound of creation. It's a real true. their own people. Everything they do is warring their mind, and everything they say is war. If we could just think back for one moment and just give a little loving, give a little thought to our own people, do every little thing that is right if it's possible. Express ourselves with love.